Alta Voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge Ho servito il re d'Inghilterra di Boumil Rabal. State attenti a quello che adesso vi dico. Di punto in bianco mi si presentavano ora immagini che avevo da tempo dimenticato, e a un tratto stavano davanti a me, così fresche e precise che stavo lì col vassoio e le minerali come colpito dal fulmine, e bastarono un paio di secondi vicino al lago e completai il ritratto di Zdenek, quel maître dell'hotel La Quiete, cui piaceva tanto divertirsi quando non lavorava da spendere tutti i soldi che aveva, erano sempre alcune migliaia. L'immagine che mi appariva era l'immagine di suo zio, un direttore di banda militare che era già in pensione, un direttore che spaccava la legna nel bosco del suo terreno, dove aveva una casetta tutta ricoperta di fiori e di frasche. E quello zio, siccome era stato direttore sotto l'Austria-Ungheria, portava sempre quell'uniforme, anche quando spaccava la legna, perché aveva scritto due galoppe e alcuni valzer che si continuavano a suonare, ma nessuno ormai sapeva chi era stato quel direttore. Tutti pensavano che fosse già morto. E così Zdenek. Una volta che stavamo andando in carrozza in quel nostro giorno libero, sentimmo una banda militare. Zdenek stava in piedi nella carrozza e fece segno al cocchiere di fermare. E poi andò da quella banda militare. Suonava un valzer dello zio. E già c'erano gli autobus. Dopo un attimo tutta la banda salì. Doveva partire per un concorso di bande militari e Zdenek convinse il direttore. Gli dette tutti i soldi che aveva, 4.000 corone per la birra ai soldati, perché facessero quel che gli chiedeva. E così scendemmo dalla carrozza e salimmo sul primo autobus e poi scendemmo nel bosco. Dopo un'ora di viaggio e 120 musicisti in uniforme, con i loro strumenti lucidi, camminarono lentamente per una via del bosco. Poi svoltarono per il sentiero fiancheggiato da folti cespugli sui quali svettavano alti pini, e Zdenek fece segno di aspettare, e attraverso i paletti divelti sparì nei cespugli e poi tornò, disse il proprio piano, fece segno e tutti i soldati, uno dopo l'altro, strisciarono attraverso i paletti nei cespugli, e Zdenek, come al fronte, dava ordine di circondare la casetta nascosta nei cespugli, dalla quale si sentivano i colpi di un'accetta, e così l'intera banda circondò silenziosamente quel ciocco, e il vecchio uomo, nella vecchia uniforme austriaca di maestro di banda militare, ed il direttore di quella banda militare, al segnale di Zdenek, gettò via di colpo il bastone dorato e dette un ordine ad alta voce, ed ai cespugli sbucarono e si alzarono gli strumenti a fiato tirati a lucidi, e la banda attaccò un galoppo veloce composto dallo zio di Zdenek, e che la banda militare portava al concorso. Il vecchio direttore restò fermo come era dopo aver spaccato in due un legno, e la banda fece un paio di passi in avanti, ma sempre col sottobosco dei pini e delle querce fino alla vita. Il solo direttore stava con quel bastone dorato immerso nel verde fino alle ginocchia, e agitava il bastone, e la banda suonava col galoppo. Gli strumenti lampeggiavano nel sole, e il vecchio direttore si guardò intorno lentamente, e sul suo volto comparve un'espressione celeste, come se stesse morendo, e quando la banda finì il galoppo, passò subito a un valzer da concerto, e il vecchio maestro ebbe un crollo, teneva la scure in grembo, e scoppiò a piangere. Il direttore della banda militare, col bastone dorato, si avvicinò, toccò una spalla al vecchio, e quando questi si raddrizzò, gli consegnò il bastone, e lo zio di Zdenek si alzò, come poi ci disse. Pensava di essere morto e di essere finito in cielo dentro una banda militare. Pensava che in cielo stesse suonando una banda militare e che Dio dirigeva quella banda e gli consegnava il proprio bastone. E il vecchio dirigeva la propria composizione. E quando ebbe finito, Zdenek uscì fuori dai cespugli e dette la mano allo zio e gli augurò buona salute. E dopo una mezz'oretta la banda salì nuovamente sugli autobus e mentre quegli autobus partivano suonarono a Zdenek una touche, una fanfara solenne. E Zdenek stava ritto ed era commosso. Faceva inchini, ringraziava. E quando gli autobus e dietro di loro anche le fanfare scomparvero sulla strada del bosco sfiorata dai rami cespugli di facce. Quello Zdenek, in realtà, quello era una specie di angelo, Ogni suo giorno libero che passavamo insieme si somigliava, rifletteva 10 giorni su come spendere quelle migliaia di corone, mentre io mi chiudevo a chiave e distribuivo sul pavimento le banconote da 100 e poi camminavo a piedi nudi su quei biglietti come su un pavimento a piastrelle, oppure mi ci stendevo sopra come su un prato verde. Così una volta Sdeneco organizzò il matrimonio della figlia di un tagliapietre. Un'altra volta andammo in un negozio di abbigliamento e vestimmo di abiti bianchi da marinaio tutti i ragazzi dell'orfanotrofio. Oppure a una fiera pagò l'intero incasso di un giorno a tutte le giostre e altalene, e quel giorno tutti poterono andarci gratis. In un giorno libero comprammo poi a Praga i più bei mazzolini di fiori e bottigliette di rosolio e andammo da un gabinetto pubblico all'altro a porgere auguri alle donne dei cessi per feste che non avevano, compleanni che erano già passati. E Zdeneke ebbe sempre la fortuna che una di quelle donne al compleanno l'onomastico invece ce l'aveva. E così una volta mi dissi che sarei andato a fare un giro a Praga e che me ne sarei andato in taxi all'hotel La Quiete a domandare se stava ancora lì Sdenek e se non c'era dove poteva essere, e che avrei anche dato un'occhiata là dove ero stato dalla nonna per essere allevato, se c'era ancora quel bugigattolo nelle cui finestre apparivano le camicie e le mutande, così come le gettavano dall'alto attraverso la finestra dei WC i clienti dei bagni Carlo. E la nonna aggiustava quelle mutande sporche e le vendeva nei cantieri, agli operai e ai muratori. Così ero alla stazione di Praga. Mentre cercavo il treno per Tabor, tirai sulla manica per vedere che ora era, e quando alzai gli occhi, vidi accanto al chiosco dei tabacchi Zdeněk. Restai di sasso. Era di nuovo quella mia cosa, come l'incredibile era diventato realtà. Restai impietrito, con la mano che tirava sulla manica, e vidi come Zdeněk si guardava intorno, come se stesse aspettando da molto, e poi sollevò il braccio. Certo aspettava qualcuno perché voleva anche lui guardare l'orologio, ma a un tratto mi si avvicinarono 3 uomini in un impermeabile di pelle e mi afferrarono per le braccia. Io continuavo a tenere la mano sull'orologio, vidi Zdeněk che mi guardava trasognato, era pallido, stava lì dritto e mi guardava mentre i tedeschi mi caricavano su un'auto e mi portavano via. E io mi meravigliavo dove e perché mi stavano portando, e loro mi portarono a Pankrac. Si aprirono le portiere e di nuovo mi condussero come un delinquente e mi buttarono in una cella. E io a un tratto fui abbagliato da quel che mi era successo. A un tratto provai quasi gioia, avevo paura che mi lasciassero libero subito, desideravo, perché tanto la guerra comunque volgeva la fine, desideravo di essere incarcerato, di stare in un campo di concentramento, desideravo di essere incarcerato proprio dai tedeschi. La mia buona stella splendette. Si aprì la porta e fui condotto all'interrogatorio, e quando ebbi detto tutti i dati e il motivo per cui ero venuto a Praga, il commissario si fece serio e poi mi domandò chi aspettavo. E io dissi nessuno, e così si aprì la porta ed entrarono 2 in borghese, si gettarono su di me e mi ruppero il naso, mi fecero saltare 2 denti, caddi a terra, si chinarono su di me e mi domandarono ancora e ancora chi aspettavo, chi doveva darmi le notizie. E io dissi che ero venuto a vedere Praga a fare una semplice gita, e uno di loro abbassò la faccia, mi sollevò il volto e mi afferrò per i capelli e mi sbatté la testa sul pavimento. Il commissario gridava che guardare l'orologio è un segnale convenuto e che ero collegato col movimento bolscevico clandestino. E poi mi portarono via e mi misero fra i carcerati. Quelli mi tirarono fuori i denti rotti, asciugarono il sangue, le sopracciglia spaccate, e io ridevo e ridevo. In qualche modo non sentivo nulla, né quei colpi, né quelle botte, né quelle ferite. Gli altri mi guardavano come se fossi il sole, un eroe. Quando mi buttarono là dentro, gli SS mi urlavano disgustati, maiale di un bolscevico, e alle mie orecchie questo appellativo suonava come una dolce musica, come un grazioso attributo, perché cominciavo a sapere che questo era il biglietto di andata e ritorno per Praga, la scolorina. il succo che unicamente poteva cancellare quel che mi era successo quando avevo sposato una tedesca, il fatto che a Keb ero stato davanti ai dottori nazisti che mi esaminavano l'organo sessuale per vedere se ero in grado di congiungermi con un'ariana germanica. Quella faccia rotta era per aver guardato l'orologio. Era la tessera in base alla quale un giorno mi avrebbero controllato e sarei entrato di nuovo a Praga come combattente antinazista e principalmente avrei fatto vedere a tutti quegli Srubeck e Brandeis e agli atelier che io ero uno di loro. Perché se sarò vivo, mi comprerò certamente uno di quei grandi alberghi. Se anche magari non proprio a Praga, sicuramente da qualche altra parte, perché con quella valigetta di francobolli, così come voleva Lisa, avrei potuto comprarne due di alberghi e scegliere se in Austria o in Svizzera. Agli occhi di quegli hotelier austriaci o svizzeri non sarei stato un bel niente. A loro non avrei avuto bisogno di mostrare o dimostrare qualche cosa. Con loro non avevo conti in sospesi. Con loro non avevo bisogno di allargarmi. Invece avere un albergo a Praga ed essere a Praga membro dell'associazione degli hotelier e arrivare a segretario di tutti gli alberghi praghesi, lì mi avrebbero ormai dovuto riconoscere. Non amare, ma rispettare. E a me per il futuro nient'altro interessava. E così restai a Pankrac 2 settimane in tutto. Altri interrogatori mostrarono poi che si trattava di un errore, che realmente aspettavano uno che doveva guardare l'orologio, che avevano già preso il contatto dal quale avevano saputo quel che gli serviva, a parte il fatto che era qualcun altro. E io mi ricordai che lì c'era Zdenek, che voleva anche lui guardare l'orologio, che Zdenek era mio amico e che l'aveva visto che c'ero finito dentro al posto suo, che lui era certamente uno molto importante e che se nessuno di quelli della cella, sicuramente Zdenek mi avrebbe difeso. E così, mentre ritornavo dagli interrogatori, prima che alzassero le mani su di me, mi feci nuovamente sanguinare il naso e di nuovo sorridevo e ridevo e dal naso mi schizzava il sangue. E poi mi rilasciarono. Il commissario si scusò, non senza far notare però che gli interessi del Reich costringono a punire per errore 99 innocenti piuttosto che un unico colpevole gli sfuggisse. E così verso sera stavo davanti ai cancelli del carcere di Pankrac e dietro di me uscì un altro rilasciato e quello quando uscì ebbe un crollo, si sedette sul marciapiede, i tram passavano nell'oscuramento viola, i passanti scorrevano su e giù, i giovani camminavano tenendosi per mano, i bambini giocavano nel tramonto come se la guerra neppure ci fosse, come se al mondo ci fossero solo fiori e abbracci e sguardi d'amore. Le ragazze in quel tiepido tramonto portavano blusette e gonne tanto stuzzicanti che anch'io guardai di gusto quel che era stato preparato per gli occhi degli uomini, tutto intenzionalmente messo in una prospettiva erotica. «Una bellezza!» disse quell'uomo quando si riprese e io gli offrì aiuto, dico quanto. A lui disse che si era fatto 10 anni e voleva alzarsi ma non ci riusciva, dovetti sostenerlo, mi domandò se avevo fretta, io dissi di no. E quando mi domandò perché ero stato dentro, dissi per attività illegali. E così andammo verso la fermata e dovetti aiutarlo a salire sul tram. E di nuovo dappertutto nel tram e fuori era pieno di gente. E tutti sembravano tornare o andare a qualche festa da ballo. E io mi accorsi per la prima volta che in realtà le praghesi sono più belle delle tedesche. Che hanno più buon gusto. Che le tedesche portano ogni cosa come un uniforme. Che i vestiti, che quei costumi nazionali, abiti verdi e cappellini da cacciatore, hanno sempre in sé qualcosa di militare. E così stavo seduto accanto a quel giovane dai capelli grigi, poteva avere non più di 30 anni, e glielo dissi anche, che nonostante tutto quel grigio era così giovane, e quando gli domandai di punto in bianco, chi hai ammazzato? Esitò un momento. Poi guardò lungamente il seno sporgente di una ragazza che per giunta si reggeva con una mano alla maniglia del tram, e lui mi domandò, «E lei come lo sa?» E io gli dissi che avevo servito l'imperatore d'Abissinia, e così arrivammo al capolinea dell'11, ed era già buio, e quell'assassino mi disse di andare con lui dalla madre, di accompagnarlo, che sarebbe potuto cadere per strada. E così fumavamo, aspettavamo l'autobus che presto arrivò, e facemmo 3 fermate e scendemmo al mulino Konicek. Quell'assassino mi disse che preferiva passare da dietro, attraverso il paesino di Makotroski, per essere a casa prima e soprattutto per fare una sorpresa alla mamma e chiederle perdono. Dissi che sarei andato con lui solo fino all'inizio del paese, fino al cancello della casetta di famiglia, della sua casa, e poi sarei ritornato sulla strada principale e lì avrei fatto l'autostop. E facevo tutto questo non per una qualche compassione o gentilezza, ma pensavo sempre al fatto di avere quanti più alibi quando un giorno la guerra sarebbe finita. Sarebbe finita da un momento all'altro. E così camminavamo. Nella notte stellata, la strada polverosa ci portò attraverso un paesino oscurato, di nuovo in una campagna umidiccia, azzurra come una carta copiativa, con una luna sottile che brillava di arancione e gettava dietro e davanti a noi o nei fossati a fianco una lieve, a malapena visibile ombra. E poi salimmo su una collina, bassa bassa, come se la terra avesse mandato un respiro. E lui disse: «Ora da qui si vedrà già il mio luogo natio e il mio paesino». Ma quando uscimmo sulla cima non si vedeva neppure una costruzione. L'assassino esitò e quasi prese paura, balbettò: «Ma non è possibile che mi sia sbagliato. Forse dietro quell'altra cima». Ma dopo aver fatto un centinaio di metri, l'assassino e anch'io fummo presi dalla paura. Adesso l'assassino prese a tremare ancora più di quando era uscito dai cancelli del carcere di Pankrac. Si sedette, si asciugò la fronte che luccicava come se ci scorresse sopra l'acqua. «Che c'è?» «Faccio». «E qui c'era un paese, non c'è più niente. Deliro, sono impazzito, o che?» balbettò l'assassino. «Faccio, come si chiama questo paese?» E lui disse: «Li dice». «Faccio, e allora questo paese non c'è più. I tedeschi l'hanno sbombardato e la gente l'hanno presa a fucilate, e il resto l'hanno portato in campo di concentramento». E l'assassino domandò ancora: «Perché?» «Faccio, perché hanno assassinato il Reichsprotector e la via degli assassini portava qui». E l'assassino stava seduto con le braccia pendenti dalle ginocchia piegate come due pinne. E poi si alzò e prese a camminare per quel paesaggio lunare come ubriaco. E poi si fermò davanti a un palo e vi cadde davanti e abbracciò quel palo, ma non era un palo, bensì il tronco di un qualche albero dal quale sporgeva un unico ramo tagliato, come se con quel ramo fossero state fatte esecuzioni per impiccagione. «Ecco, qui», disse l'assassino, «qui è il nostro noce, qui c'era il nostro giardino, qui camminava lentamente da qualche parte, qui...» Poi si inginocchiò e con le mani tastava le fondamenta interrate della casa e delle altre costruzioni rurali. Certamente stava usando la scrittura per ciechi rafforzata dal ricordo, e dopo aver tastato in ginocchio tutta la casa natia, si sedette sotto il tronco e gettò un grido: «Assassini!» E si alzò e strinse i pugni, e vene blu gli si gonfiarono sul collo in quella luce di luna rarefatta, e quando ebbe gridato abbastanza «Assassini!», quell'assassino si sedette a terra, si chinò, premette una mano sotto un ginocchio e prese a dondolare come in una sedia a dondolo, e guardava quel ramo disegnato sulla falce della luna e discorreva come se si stesse confessando: e mio papà era bello ed era più bello di come sono io adesso. Io sul confronto sono un fallimento, anche se sono abbastanza carino. E a papà piacevano le donne, e alle donne piaceva ancor più papà, e così papà se la intendeva con la vicina, e io ero geloso di papà, e la mamma si tormentava, e io vedevo come papà vede, e si teneva a questo ramo, e quando dondolava ormai forte si lasciava andare così abilmente che finiva dall'altra parte dello steccato, e lì c'era la bella vicina, e io una volta papà lo aspettai, e quando volò sopra lo steccato e ci mettemmo a litigare, e io ammazzai papà con un'accetta, non che lo volessi ammazzare, ma volevo bene alla mamma, e la mamma si tormentava. E adesso di tutto questo era stato soltanto il tronco del noce. E mamma, anche lei è probabilmente morta. Faccio, può essere in un campo di concentramento, presto tornerà». E l'assassino si alzò e disse: «Vieni con me, andiamo a domandare». E io dissi: «E perché no? io so il tedesco. E così prendemmo la strada per Kladno e prima di mezzanotte eravamo a Kroclavi e domandammo alla sentinella tedesca dov'è l'edificio della Gestapo e la sentinella ci disse come arrivarci e poi stavamo davanti a un portone. Al primo piano c'era una qualche festa, brusio, rumore, tintinnio e penetrante riso di donne e le sentinelle si davano il cambio. Era l'una dopo la mezzanotte e io dissi al comandante del corpo di guardia: si può parlare con il comandante della Gestapo? E lui urlò: Was? E che venissimo al mattino, ma si aprì la porta e si riversò fuori una folla allegra di SS in uniforme. Andavano via e salutavano allegri, come dopo qualche festa solenne, una serata, un onomastico, un compleanno. Questo mi ricordava anche come da noi se ne andavano ogni giorno dall'Hotel Parigi clienti raggianti quando veniva il momento oppure era l'ora di chiusura. E lì, sull'ultimo gradino, c'era un soldato. Reggeva un candelabro con le candele. Era ubriaco, con uniforme slacciate, capelli sulla fronte, sollevava quel candelabro per commiato e quando ci vide scese fino alla soglia e domandò al comandante del corpo di guardia che gli rendeva onore chi fossimo. E il comandante disse che avremmo voluto parlare con lui e l'assassino mi disse di dire quel che poi tradussi, che lui era stato in galera 10 anni e che adesso era venuto a casa a Lidiz e che non aveva trovato né la casa né la madre, sicché voleva sapere che è successo alla mamma. E il comandante scoppiò a ridere. Dal candelabro inclinato sgocciolavano in terra come lacrime rivoletti di cera bollente. E il comandante salì su, ma poi urlò: Halt! E le sentinelle aprirono la porta e il comandante scese e domandò: perché ha preso quei 10 anni? E l'assassino disse che aveva assassinato il padre. E il comandante prese il candelabro con le candele tuttora cocciolanti e fece luce al viso di quell'assassino e in qualche modo si rianimò, come se gioisse perché il destino quella notte gli aveva mandato uno che veniva a domandare della propria mamma, avendo assassinato il proprio padre ed essendo nella situazione in cui si trovava spesso lui come assassino, sia per ordini sia per libera decisione. E così io, che avevo servito l'imperatore d'Abissinia ed ero stato spesso testimone di come l'incredibile era diventato realtà, vidi come l'assassino di stato del Reich, assassino in grande, onorato di decorazioni che gli strimpellavano sul petto, saliva su per le scale e dietro di lui procedeva un assassino semplice, un parricida. E io volevo andarmene, ma il comandante del corpo di guardia mi prese per una spalla e mi indicò gli scalini verso i quali mi girò brutalmente. E così ero seduto vicino agli avanzi del festino, a un grande tavolo, come erano i tavoli quando andava via un matrimonio o una grande festa di laurea. Avanzi di torte, bottiglie incominciate, non finite e finite. E in mezzo al tavolo sedeva un SS ubriaco, e anche lui faceva domande, e io traducevo, che era successo 10 anni prima vicino al tronco del noce, ma più di tutti gioiva il comandante per quanto era perfetto l'organizzazione a Pankrac, che il carcerato non era venuto a sapere di quello che era successo a Lidiz e di Lidiz era stato. E l'ancor più incredibile, quella sera diventò realtà. Io, mascherato da traduttore, col viso rotto e le ferite non ancora chiuse, non riconosciuto, riconobbi nel comandante della Gestapo anche uno dei partecipanti al mio matrimonio. Quel signore militare che non mi aveva fatto le congratulazioni, né mi aveva dato la mano, col quale volevo brindare, però io avevo porto il bicchiere, avevo battuto i tacchi delle pumps di quelle scarpette laccate, ma stavo lì col braccio disteso, il bicchiere, tintinnando la mia propria felicità, e però non ero stato ricambiato, e così quella volta ero stato mortificato di brutto, e io non sopportavo di essere mortificato, quella volta ero diventato rosso fino alle radicine dei capelli, proprio come quando mi avevano rifiutato il brindisi sia il signor Surbet, ecco Tellier, sia il signor Scrivane, che quello che aveva servito al re d'Inghilterra. E adesso un altro me ne offriva il destino, un altro che non si era accorto della mia offerta ben intenzionata per un'amicizia fra bicchieri. E ora sta seduto, qui, davanti a me, e si pavoneggia perché si è alzato e sta svegliando un comandante dell'archivio E poi tira fuori insieme a noi un registro e vi trova e legge, sempre al tavolo del festino, nel girare le pagine, nell'immergerle in varie salse, liquori versati, finché trova quella giusta, per leggerne che cosa era accaduto. E la comunicazione che la mamma dell'assassino sta in un campo di concentramento e finora accanto al suo nome non ci sono né una data, né una crocetta che indichino la sua morte. Quando il giorno dopo ritornai a Chomutov, ormai ero già stato rilasciato. Avevano già avuto la notizia e il semplice sospetto bastò per farmi fare le valigie e trovai anche una lettera. Lisa era andata da Siegfried e dal nonno a Keb, a città di Amsterdam. Dovevo raggiungerli e la valigetta l'aveva portata con sé. E così me ne andai in auto fino alle porte di Keb, dove dovetti aspettare perché era annunciato un bombardamento su Keb e Ass. E mentre stavo steso nella trincea con i soldati sentivo il rombo, il lavorio regolare e ritmico di un qualche macchinario in avvicinamento, perché era comparso, quasi mi era apparso il mio figliolo. Vedevo come ogni giorno, e così certamente anche oggi, in quanto gli avevo comprato 5 chili di chiodi da 20, strisciava ritmicamente, regolarmente e con potenti colpi di martello, ficcava con una botta sola, chiodo dopo chiodo nel pavimento, con tanto entusiasmo come se stesse piantando ravanelli o spinaci fitti fitti. E poi, passato il bombardamento, salì su un'auto militare e quando ci stavamo avvicinando a Keb, da lì veniva gente che cantava, vecchi tedeschi che cantavano certe canzoni, però erano canzoni allegre. Forse erano ammattiti o confusi da quello che avevano visto. Oppure era loro abitudine cantare una canzoncina allegra per le disgrazie, e poi ormai ci venivano incontro la polvere e il fumo dorato, e vedemmo anche i morti nelle trincee. E incominciarono le strade con le case in fiamme, le squadre di soccorso estraevano i semisepolti, e le infermiere si inginocchiavano e fasciavano teste e braccia, e da tutte le parti si sentivano gemiti e lamenti. E io pensavo a come ero passato di qui in carrozza e auto per il matrimonio, e come tutti erano ebri per la vittoria sulla Francia e la Polonia, e vidi quelle bandiere rosse con la croce uncinata, sbocconcellate dal fuoco. Bruciavano quelle bandiere e vessilli, scoppiettando, come se il fuoco se li gustasse particolarmente. Fuoco che saliva in alto lungo il panno rosso e che si avvitava nella nera estremità, come la coda di un cavalluccio marino. E poi stavo davanti alla parete in fiamme abbattuta dall'hotel alla città di Amsterdam. E poi soffiava un leggero venticello, portava via le nubi beige di fumo e polvere, e io vidi all'ultimo piano come il mio figliolo stava seduto lì e continuava a prendere i chiodi, con potenti colpi li ficcava nel pavimento. Vedevo da lontano come ormai aveva una destra forte, addirittura lui non era altro che un forte polso e gomito da tennista e bicipite in movimento, che con un colpo solo continuava a ficcare chiodi nel pavimento come se non cadessero le bombe, come se niente al mondo succedesse. E così successe che il giorno dopo, quando la gente tornò e uscì dai rifugi, non venne Lisa, mia moglie. Dicevano che probabilmente era restata da qualche parte in cortile, e io chiesi della piccola valigetta sdrucita, mi dissero che Lisa se la portava sempre dietro. E così presi una pala e cercai per tutto il giorno in cortile. Poi il giorno dopo detti al figliolo quei 5 chili di chiodi, e quello si mise allegramente a infilarli nel pavimento mentre io cercavo mia moglie e sua madre, finché il terzo giorno urtai le sue scarpe lentamente, mentre intanto Siegfried gridava e piangeva che non aveva più chiodi e che nessuno glieli portava. Così picchiava col martello almeno le teste dei chiodi già piantati. Io tiravo lentamente fuori dalle macerie e dalle rovine la mia Lisa. E quando arrivai a metà del suo corpo, vidi come tutta raggomitolata proteggeva col corpo la valigetta di caucciù. E dapprima nascosi questa con cura e dopo dissotterai l'intera moglie, però senza testa. Lo spostamento d'aria le aveva strappato la testa, che cercammo poi altri 2 giorni, mentre il figlio continuava a battere col martello e a colpire le testine dei chiodi infilandoli nel pavimento e nella mia testa. Così il quarto giorno presi la valigetta e non mi congedai e andai via, e dietro di me si indeboliva il continuo martellamento dei chiodi infilati, quei colpi che sentii poi per quasi tutta la mia vita. Perché quella sera l'associazione per i bambini disturbati doveva venire a prendere il mio figliolo, Siegfried, mentre Lisa la seppellimmo in una tomba comune. In qualche modo era con la testa, ma era soltanto uno scialle arrotolato su un tronco affinché la gente non pensasse chissà cosa. Sebbene per quella testa avessi rivoltato l'intero cortile. E basta. Con questo oggi finisco. Fausto Paravidino ha letto Ho servito il re d'Inghilterra di Bumil Rabal, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.